Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo ad occuparci di accessibilità stasera. Infatti, se c'è qualcosa che una città che aspiri a definirsi intelligente proprio non può permettersi è una scarsa fruibilità dei servizi pubblici da parte dei soggetti più deboli, in particolare da parte dei disabili. Ecco perché questa sera vi portiamo a Trento per parlarvi di una soluzione innovativa sviluppata dall'azienda di trasporto locale Trentino Trasporti Esercizio per semplificare l'uso del trasporto pubblico da parte di ciechi e ipovedenti. È un sistema sofisticato, come vedremo. La parte visibile è un'app che si chiama iBus Voice. Ce ne parla il responsabile dell'IT di Trentino Trasporti, Aldo Bernard, intervistato dalla nostra Chiara Albicocco. Sentiamo. Tempo fa abbiamo fatto un progetto che voleva portare sul telefonino verso la gente i nostri orari. Abbiamo usato il QR code, ma chi non può fare la foto, che non vede dove inquadrare, chi non riesce a identificare bene, ecco, dove sia posizionato il QR code, cosa facciamo? Allora abbiamo innanzitutto cercato di individuare un mezzo per i ciechi per dargli la voce a questo QR code. Abbiamo risolto una serie di piccoli problemi verso i ciechi che hanno l'abitudine di prendere l'autobus, però spesso e volentieri devono andare a memoria per gli orari. Abbiamo trovato un'antennina tipo Bluetooth che copre un raggio di 50 metri e ci siamo messi a costruire il software, un'app che abbiamo chiamato iBus Voice, l'altra nostra applicazione si chiamava iBus. E in tal maniera quando una persona arriva a 50 metri dalla fermata, il suo telefonino lo intercetta come un normale Bluetooth. Lui chiaramente deve aver scaricato prima un'app, l'iBus Voice. Sì. E è stata fatta in collaborazione con IRIFOR, per cui un'associazione dei ciechi che studia le nuove tecnologie. L'abbiamo fatta, come ci hanno detto loro, in maniera da poter aiutarli nell'avere le informazioni corrette. Dunque, ha detto il Bluetooth che copre un'area di 50 metri. Già questo è una notizia, nel senso che avete trovato questa tecnologia anche a basso costo, che può essere installata su tutte le stazioni, insomma su tutte le paline. E le fermate, quelle principali. Cioè 50 metri non sono poco. Chiaramente questo ci ha portato anche a un secondo problema. Due fermate, una posta da una parte della strada, una posta dall'altra, facevano interferenza e abbiamo risolto anche il problema di due fermate troppo vicine. Ecco, si riesce a distinguere, diciamo, quale delle due è la fermata scelta. Che tipo di informazioni ci dà poi l'applicazione? Ad esempio, uno viene rilevato attraverso il Bluetooth, che tipo di informazioni riceve? Chiaramente a questo punto riceve le informazioni in tempo reale. Questo cosa vuol dire? Non ti sto a dare tutti gli orari a partire dalla mattina quando sei lì alle 4 pomeriggio, per cui ti do i prossimi passaggi per linea oppure addirittura il passaggio degli autobus alla fermata, il numero 1, il numero 5, il numero 7. E poi una volta salito sul mezzo riceve anche indicazioni su quante sono le fermate prima che, insomma, la persona debba scendere. Sì, perché possiamo anche costruire il percorso e dirgli, non so, da qui a qui fai 4 fermate con il numero 3, cambi e poi vai col numero 5. Ah, quindi proprio la costruzione di un itinerario ad hoc. Sì, chiaramente dandogli poche informazioni essenziali. Lei diceva che tutto questo nasce ovviamente dall'esigenza di portare sui mezzi pubblici anche persone che hanno difficoltà visiva e voi avete lavorato con l'Associazione Italiana Ciechi. Anche perché se ci rivolgiamo a loro risolviamo i problemi effettivi, non è che ce li pensiamo noi, e chiaramente la nostra proposta potrebbe anche essere diffusa attraverso di loro a qualsiasi altra città, insomma, ecco. Bernardo, ovviamente l'applicazione è scaricabile gratuitamente. Certo, tra l'altro la stiamo facendo sia per l'iPhone che per Android. Ok, allora ripetiamo il nome dell'applicazione, iBus Voice, si scrive iBus Voice. Lois della società Trentino Trasporti Esercizio. Benissimo, allora in bocca al lupo Bernard. Grazie, una tecnologia comoda per tutti, insomma abbiamo imparato dai ciechi a utilizzare una nuova tecnologia. Grazie a Chiara Albicocco e ad Aldo Bernard, ci fermiamo qui, a domani.